Le piacevoli notti, libro secondo, di Giovan Francesco Straparola. Introduzione alla settima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. Notte settima. Tutte le parti dell'estremo e freddo occidente già cominciavano ad ombrarsi, e da Plutone, l'amata amica, già da ogni canto le notturne tenebre dimostrava, quando l'onesta e fida compagnia al palazzo della signora si ridusse. Onde di mano in mano, secondo i loro ordini, postisi a sedere, sì come le trapassati notti avevano fatto, non altrimenti fecero la presente. Il molino, di ordine della signora, comandò il vaso fosse recato, e messavi la mano dentro, trasse prima di Vicenza il nome, indi di Fiordiana, dopo di Lodovica, riservando a Leonora il quarto luogo e ad Isabella il quinto. Finito l'ordine di quelle che avevano a favoleggiare, la signora ordinò che Lauretta una canzone cantasse, la quale, ubbidientissima, senza altra scusazione, così a dire incominciò: ardo tremando e nell'arder agghiaccio, disir d'un fermo amor fido e perfetto, mi tien tra il sì e il no tardo e sospetto. Arrei più volte il mio pensier scoperto, sol per temprar del core l'infinita passion ch'al fin mi scorge, ma vergogna e timor del vostro onore, guerreggiando egualmente col desire, al lungo mio martire un tale effetto porge, che d'un sì ardente amor comprendo aperto il viver dubbioso e il morir certo. Fine dell'introduzione alla settima notte. Registrazione di Roberto Cofini.